terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Verso Natale, Lolita prese una brutta infreddatura e fu visitata da un'amica della signorina Lester, una certa dottoressa Ilse Tristamson. Ciao Ilse, eri un'anima buona e per nulla indiscreta e hai toccato la mia colomba con molta delicatezza. Costei le diagnosticò una bronchite, le diede dei colpetti affettuosi sulla schiena, la peluria irta a causa della febbre, e la confinò a letto per almeno una settimana. All'inizio aveva un po' di temperatura e non potei resistere alla piretica squisitezza di certe delizie impreviste. Venus febriculosa. Benché fosse una Lolita molto languida, quella che gemeva e tossiva e rabbrividiva fra le mie braccia. E non appena fu guarita, diedi una festa coi ragazzi. Forse avevo bevuto un po' troppo in vista di quel cimento. Forse feci la figura del cretino. Le ragazze avevano decorato e collegato a una presa un piccolo abete alla maniera tedesca, solo che al posto delle candeline c'erano tante lampadine colorate. Qualcuno scelse dei dischi e nutrì il grammofono del mio padrone di casa. Dolly, molto chic, aveva un bel vestito grigio col corpetto aderente e la gonna scampanata. Quando se ne furono andati, la mia Lo disse «Pah!», chiuse gli occhi e si lasciò cadere in una poltrona con braccia e gambe a stella marina, esprimendo così il più assoluto disgusto e sfinimento, e giurò che non aveva mai visto dei ragazzi così repellenti. Per quel commento le comprai una racchetta nuova. Gennaio fu umido e tiepido, e febbraio ingannò la forsitia in città. Non s'era proprio mai visto un clima simile. Piovvero altri regali. Per il suo compleanno le comprai una bicicletta. Quando la primavera ebbe ritoccato di giallo, di verde e di rosa Tyre Street, la passione di Lolita per il teatro era ormai irrevocabile. In quel periodo ero molto preso dalle mie proprie fatiche letterarie e non mi preoccupai di leggere per esteso la sceneggiatura dei Cacciatori incantati, la commediola nella quale Dolores Hayes faceva la parte della figlioletta di un fattore convinta di essere una strega dei boschi. O Diana, o chissà chi. La coincidenza fra il titolo e il nome di un albergo indimenticabile mi dava un piacere sottilmente malinconico. Pensai stancamente che fosse meglio non farla notare alla mia personale incantatrice, perché temevo che una sfacciata accusa di sentimentalismo potesse farmi soffrire ancor più della sua incapacità di notarla da sola. Ci fu una prova molto speciale. Oh, il mio cuore, il mio cuore. Un giorno di maggio, segnato da tanto gaio fermento, tutto scorreva via, fuori dalla mia portata, refrattario alla mia memoria, e quando rividi Lo, nel tardo pomeriggio, in bilico sulla bicicletta ferma, il palmo premuto sulla corteccia umida di una giovane betulla ai margini del nostro prato, fui così colpito dalla radiosa tenerezza del suo sorriso che per un attimo credetti risolti tutti i nostri problemi. «Ti ricordi?» disse. «Come si chiamava quell'albergo, sai?» naso arricciato. «Dai, che te lo ricordi!» Con quelle colonne bianche e il cigno di marmo nell'atrio. Ma sì, lo sai benissimo, sbuffò rumoroso. L'albergo in cui mi hai violentata. Va bene, lasciamo perdere. Senti, non era... Quasi in un sussurro. I cacciatori incantati? Sì, vero? Pensosa. Sì. E con uno squittio di primaverile riso amoroso, diede una pacca al tronco lucente e si lanciò su per la salita sino alla fine della strada e poi tornò indietro, i piedi in ozio sui pedali fermi, posa rilassata, una mano sognante sul grembo di cotone fiorito. Poiché c'era presumibilmente un nesso con il suo interesse per la danza e il teatro, avevo permesso a Lo di prendere lezioni di piano da una certa signorina L'Empereur, nome assai appropriato per noi studiosi di Flaubert, nella cui casetta bianca con le imposte azzurre andava due volte la settimana, facendo circa 1,5 chilometri in bicicletta. Un venerdì sera di fine maggio squillò il telefono nel mio studio e la signorina L'Empereur mi chiese se Lo avesse intenzione di andare da lei martedì, visto che non si era presentata né quel giorno né il martedì precedente. Trovai Dolores Hayes al tavolo della cucina. Stava consumando una fetta di torta con gli occhi fissi sul copione. Li alzò a guardare i miei con una sorta di celestiale vacuità. Rimase curiosamente tranquilla quando la misi di fronte alla mia scoperta e disse, d'un petit air faussement contrit, che sapeva di essere molto birichina, ma non aveva proprio saputo resistere all'incantesimo e aveva trascorso quelle ore di musica. Oh, lettore, lettore! In un parco lì vicino, provando con Mona la scena della foresta magica. Mangiandosi una pellicina, mi fissò beffarda, con quei suoi occhi caliginosi e crudeli, e per tutto il tempo fece dondolare uno sgabellino su cui aveva allungato un piede scalzo, e notai tutto d'un tratto, con un accesso di nausea dolorosa, quanto fosse cambiata dal primo nostro incontro di 2 anni prima. O forse era accaduto nelle ultime 2 settimane. Tandres? Quello era certo un mito infranto. Lolita era seduta proprio nel fulcro della mia ira incandescente. Spazzata via la nebbia d'ogni lussuria, non rimaneva altro che quella spaventevole lucidità. Ah, se era cambiata! La sua carnagione era oramai quella di una qualsiasi volgare sciatta liceale che divide i cosmetici con le amiche, spalmandoseli sulla faccia non lavata, le dita luride, senza curarsi di quale sozzo tegumento, di quale epidermide pustolosa venga in contatto con la sua pelle. Era così adorabile una volta, con la sua liscia rosea tenerezza, così lucente di lacrime, quando per gioco facevo girare sulle ginocchia la sua testa arruffata. Un rossore grossolano aveva preso il posto di quell'innocente fluorescenza. Ciò che i locali chiamavano raffreddore da coniglio le aveva tinto di un rosa acceso i bordi delle narici, piene di disprezzo. Mentre terrorizzato abbassavo lo sguardo, esso scivolò meccanicamente sotto il lato inferiore ben teso della sua coscia nuda. Come erano diventate muscolose e levigate le sue gambe, i suoi occhi distanziati di un grigio di vetro appannato, leggermente iniettati di sangue, erano fissi su di me e attraverso di essi intravidi un pensiero clandestino. Forse Mona aveva ragione, dopo tutto, e lei, l'orfana, lo avrebbe potuto smascherarmi senza subire conseguenze. Come mi sbagliavo! Che pazzo ero! Tutto in lei era dello stesso ordine esasperante e impenetrabile. La forza delle sue belle gambe, la pianta sporca del calzino bianco, il pesante maglione che portava nonostante l'afa della stanza, il suo odore di femmina e specialmente il vicolo cieco del viso, con quella strana vampa e le labbra truccate di fresco. I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you'll bring me all in life on you depends. Am I guessing that you love me, dreaming dreams on you in vain? I'm confessing that I love you over again. Respiro e dissi: Dolores, questa storia deve finire. Altrimenti sono pronto a ritirarti dalla scuola e a rinchiuderti sai bene dove. Il tempo di fare una valigia. Questa storia deve finire. O può succedere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, eh? Levai di scatto lo sgabello che lei faceva dondolare col tallone e il suo piede cadde sul pavimento con un tonfo. Ehi, gridò, vacci piano. Prima di tutto fila di sopra, gridai a mia volta e contemporaneamente la tirai su con violenza. Da quel momento non trattenni più la voce e continuammo a sbraitare tutti e due. E lei disse cose impubblicabili, disse che mi detestava. Mi fece smorfie mostruose gonfiando le guance ed emettendo un diabolico plof. Disse che quando ero a pigione da sua madre avevo tentato di violentarla varie volte. Disse che era sicura che l'avessi assassinata io. Disse che sarebbe andata a letto col primo che glielo avesse chiesto e che io non potevo farci niente. Io ribattei che doveva salire di sopra e farmi vedere tutti i nascondigli. Fu una scenata chiassosa e ripugnante. Io la tenevo per il polso scarno e lei continuava a divincolarsi cercando surrettiziamente un punto debole per liberarsi al momento giusto. Ma io la tenevo ben stretta e anzi le feci molto male per la qualcosa spero possa marcirmi il cuore. E un paio di volte diede uno strattone così violento che temetti le si spaccasse il polso e per tutto il tempo mi fissò con quegli occhi indimenticabili in cui lottavano gelida collera e lacrime cocenti e le nostre voci soffocarono il trillo del telefono e quando mi resi conto che suonava, lei subito mi sfuggì. Pare che coi personaggi dei film io condivida i servigi della macchina telefonica e del suo dio improvviso. Stavolta chiamava una vicina inferocita. In salotto la finestra orientale era aperta, ma con la tenda misericordiosamente abbassata. E dietro di essa, l'umida, nera notte di un'agra primavera del New England, ci aveva ascoltati, trattenendo il fiato. «Questo chiasso manca della più elementare!» starnazzò la cornetta. «Non siamo in un quartiere popolare! Non posso assolutamente...» Mi scusai a nome degli amici di mia figlia, che erano così rumorosi, i giovani, sa... Riattaccai dopo un gracidio e mezzo. Al piano di sotto la porta zanzariera sbatté. «L'ho fuggita!» Dalla finestra sulle scale vidi un piccolo fantasma impetuoso che scivolava tra i cespugli, un puntolino argenteo nel buio, il mozzo di una ruota di bicicletta si mosse. Rabbrividì, Lolita era scomparsa. Proprio quella notte la macchina si trovava in città, nel garage di un meccanico. Non avevo alternative. Dovevo inseguire l'alata fuggitiva a piedi. Ancora adesso, dopo che più di 3 anni sono lievitati e rotolati via, io non riesco a figurarmi quella strada di una notte primaverile, quella strada già così fronzuta, senza un brivido di panico. 3 passi normali, 3 di corsa. Una pioggia tiepida cominciò a tamburellare sulle foglie dei castagni. All'angolo successivo, premendo Lolita contro una ringhiera di metallo, un giovane sfocato stringeva e baciava... No, lei ha sbagliato. Con gli artigli ancora formicolanti continuai a correre. Davanti al primo drugstore vidi con quale melodia di sollievo la bella bicicletta di Lo che la aspettava. Spinsi invece di tirare, tirai, spinsi, tirai ed entrai. Attenzione! A una decina di passi di distanza, Lolita, attraverso il vetro di una cabina del telefono, il dio della membrana è sempre con noi, la mano a coppa china sul microfono, con aria confidenziale mi vide. Strinse gli occhi, mi voltò le spalle con il suo tesoro, riattaccò in fretta e furia e uscì con aria baldanzosa. «Stavo cercando di chiamarti», disse, tutta allegra. «Ho preso una grande decisione, ma prima offrimi qualcosa da bere, papà!» Guardò la ragazza del bar, svogliata e pallida, che riempiva il bicchiere di ghiaccio, ci aggiungeva la Coca-Cola, poi lo sciroppo di ciliegia, e il mio cuore scoppiava di mal d'amore. Quel polso infantile, la mia bellissima bambina. Ha una bambina bellissima, signor Humbert. La guardiamo sempre quando passa. Il signor Pim guardò Pippa, che succhiava l'intruglio. «Senti», disse, avanzando accanto a me in bicicletta, un piede che raspava il marciapiede lucente e oscuro. «Senti, ho preso una decisione. Voglio lasciare la scuola, la odio quella scuola, odio anche la commedia, davvero, non voglio tornarci più, ne troveremo un'altra. Andiamo via subito, partiamo di nuovo per un lungo viaggio, ma stavolta andiamo dove voglio io, vero?» Annuì, Lolita mia. Nel nostro ingresso scintillante di luci accoglienti, la mia Lolita si tolse il maglione, scosse i capelli ingemmati, mi tese due braccia nude, sollevò un ginocchio. «Portami in braccio, per favore, stasera mi sento romantica!» Forse al fisiologo interesserà sapere a questo punto che ho la capacità, caso singolarissimo presumo, di versare torrenti di lacrime durante tutta l'altra tempesta. Il prudente papà Humbert, non molto portato per la meccanica, fece sostituire le guarnizioni dei freni, pulire il radiatore, regolare le valvole, pagò altre riparazioni e migliorie, tanto che al momento di intraprendere il nuovo viaggio, la macchina della defunta signora Humbert fu in condizioni soddisfacenti. Avevamo promesso alla Bursley School, alla buona vecchia Bursley School, che saremmo tornati appena terminato il mio impegno hollywoodiano. L'inventivo Humbert lasciò intendere che sarebbe stato il più autorevole consulente nella produzione di un film sull'esistenzialismo, che a quei tempi faceva ancora scalpore. In realtà stavo accarezzando l'idea di insinuarmi pian piano attraverso il confine messicano, ero più audace dell'anno prima, e lì decidere che cosa fare della mia piccola concubina, che ormai era alta 1,52 m e pesava 40 chili. Avevamo dissepolto guide e cartine. Lei aveva tracciato il percorso con immenso gusto. Era forse merito di quella recita se la sua aria da adolescente estenuata era subentrata quell'adorabile voglia di esplorare la sontuosa realtà. La pallida ma tiepida mattina di domenica in cui abbandonammo la casa perplessa del professor Kim e imboccammo in fretta la Main Street, diretti verso l'autostrada a quattro corsie, sperimentai l'arcana leggerezza dei sogni. Il vestito di cotone del mio amore a strisce bianche e nere, lo sbarazzino berretto azzurro, le calzette bianche e i mocassini marrone non erano molto in armonia con la grande acquamarina dal taglio magnifico che, appesa a una catenina d'argento, le adornava la gola. Un mio dono in occasione di un acquazzone primaverile. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling, babe. The moment you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Yes, once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, but that old feeling is still in my heart. Yes, I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, mama, I got that old feeling, baby. Yes. The moment you danced by, I felt a little thrill. Yes, when you caught my eye, baby, my heart stood still, baby, baby. Oh. And once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. Yes, there'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling, babe, is still in my heart. Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.